ti prometto il cor, io ti prometto il cor, fede costanza, fede costanza. Vado, riposo in te, so venga ti che sei la mia speranza, la mia speranza.